Venghino, signori, venghino a vedere il più incredibile spettacolo. Ed ora la nostra attrazione principale. Ecco a voi. Nexus. Bentornati, benvenuti into the Nexus. Io sono Nexus, come al solito. Non sono cambiato, sono sempre io. E mentre tiro sulle basi, vi... Ehi, le basi? Basi? Basi? Hello, basi. Ah, è finito il pezzo. Ecco perché non ci sono le basi. comunque, bentornati, come vi dicevo. Volevo innanzitutto scusarmi per la lunga assenza dal panorama del podcasting italiano, specialmente quello indipendente, ma la vita reale ha preso il sopravvento sulle mie facoltà mentali e motorie, per cui ho dovuto dedicare la maggior parte delle mie energie a qualcos'altro. E questo qualcos'altro in particolar modo è stato l'insegnamento. Infatti ho avuto la splendida occasione di insegnare presso una università di Daegu, la Kemyeong University, Kemyeong Daehakyo, come lecturer part-time, lecturer, una figura di, oddio, in italiano, non mi ricordo come si dice, più o meno professore, anche se non professore cattedrato, e ho avuto per l'appunto questa splendida occasione il semestre scorso, solo che mi sono stati comunicati i corsi che avrei dovuto insegnare e i dettagli relativi ai corsi, quindi il programma, se ci fosse un programma da rispettare, se ci fossero dei testi consigliati o meno, con circa una settimana di anticipo sull'inizio dei corsi, quindi ho dovuto continuamente rincorrere la preparazione delle slide, delle lezioni e correggere i compiti, ovviamente, eccetera, eccetera, eccetera. L'insegnamento è specialmente a livello universitario richiede tantissimo tempo, davvero. Poi, essendo la prima volta, c'è anche il problema di non essere preparati, anche se sono nozioni che sono ben acquisite dagli studi universitari, comunque spiegare a qualcun altro quello che si è imparato non è la stessa cosa che spiegarlo a se stessi mentalmente. E quindi eccomi qua di nuovo. Buon anno a tutti, tra parentesi. Spero abbiate passato delle buone feste e spero che questo 2011 sia migliore del 2010. È sempre importante augurarsi un anno migliore. Novità dal punto di vista del podcast: ho comprato un'asta microfono, quindi non sono più col microfono appoggiato sulla scrivania e spero che si senta meno il mio sbatacchiare qua e là, il mouse piuttosto che la tastiera, piuttosto che colpi dati con le mani all'asta. E il microfono è sempre lo stesso, ma è arrivato un nuovo mixer. Un nuovo mixer che in realtà non ne avrei avuto bisogno, un bisogno urgente. Però diciamo che l'idea sarebbe quella di utilizzarlo per podcast con più di un microfono, in quanto ha quattro ingressi microfono contro i due del precedente mixer, e soprattutto ha la comodità di essere anche un'interfaccia audio USB per il computer, per l'appunto, per cui posso recuperare l'audio di ciascuna singola traccia oppure l'audio già missato dell'uscita master del mixer. Altre novità: ci sono non una ma due webcam. Avrei voluto fare un po' di esperimenti con il picture in picture, ma non potrò farli perché ancora non ho capito bene, c'è qualche cosa che va in conflitto. Per cui se provo a aprire la seconda webcam nel programma in Manicam, che è il programma che mi consente di fare il picture in picture, si rompe tutto. Quindi dovrete accontentarvi di qualche stacco particolarmente brutale tra una webcam e l'altra. Una webcam è quella che state vedendo adesso, quella che inquadra me. La seconda webcam sarà utilizzata invece per inquadrare il mixer. Questo perché vorrei cercare di illustrare quali sono le cose da fare, come è possibile realizzare un podcast utilizzando un mixer. E questo anche così, semplicemente a scopo illustrativo. Penso che sia interessante vedere come viene realizzato nel suo complesso un podcast dal vivo. Poi magari si faranno anche degli screencast. Proverò a registrare quello che faccio sul desktop, i programmi che ho aperti, eccetera, eccetera, in modo che poi chi voglia eventualmente realizzare un podcast di suo possa più facilmente entrare in questo magnifico mondo. Ma ho blaterato abbastanza e quindi direi che incomincio a passare il primo pezzo. Nel frattempo, ecco qua il mio nuovo mixer. Facciamo scendere giù le basi. Sentite che se ne vanno, se ne va anche la mia voce tra un po', e il primo pezzo è di Ray Tatum, spero di aver pronunciato correttamente il nome, qua ovviamente il video non cambia, hello, video, problemi su Into the Nexus, hello, si è rotto tutto. Non so che cosa stia succedendo, ma vabbè. Non ha nessuna intenzione di cambiare. Ehi, hey, Ustream. Oh, eccoci qua. Stavo dicendo che il pezzo è di Ray Tatum e si chiama Sensaciones, quindi buon ascolto. Thank you. E rieccoci, bentornati. Ecco di nuovo sulle palle. Wow, fermi tutti. Il prossimo pezzo è partito senza avvertirmi. Quindi rieccoci in onda. Nel frattempo sono andato a prendermi dell'ottimo succo di pomodoro allungato per rinfrescare le mie secchissime fauci. E passiamo al primo argomento del giorno. Dunque, vediamo un attimo, scalettina, eccola qua. Di che cosa volevo parlare? Volevo parlare in particolar modo del sistema economico che ci siamo costruiti in giro per il mondo. E in particolar modo quello che riguarda il debito pubblico, no? Perché secondo me è un sistema che fa acqua da tutte le parti. Ci sono dei buchi grossi come delle... non lo so, veramente sono giganteschi. Cioè questo secchio con cui cerchiamo di tirare su acqua da portare in casa, ma ci sono dei buchi enormi per cui l'acqua non arriva mai. Che cosa ci siamo inventati? Ci siamo inventati questo sistema. Noi abbiamo degli stati, ok, che una volta emettevano moneta. Dopo l'invenzione del denaro si è detto che il denaro ha un valore legato a quelle che sono le risorse del paese. Okay? La risorsa più importante era l'oro, ma non solo. Adesso invece l'emissione della carta moneta è del tutto indipendente da quelle che sono le risorse reali di un paese. Quindi che cosa succede? Che uno emette carta moneta per cercare di contrastare gli effetti del mercato, diciamo. Emettendo più carta moneta si riduce il valore della propria moneta nei confronti delle monete degli altri paesi del mondo e quindi si riduce anche il potere di acquisto dei beni importati da parte dei propri cittadini, ma allo stesso tempo si rende più forte l'esportazione. E fin qui ci potrebbe anche stare. Qual è il problema adesso? Comunque secondo me è sbagliato, nel senso che la moneta dal mio punto di vista deve sempre avere un controvalore reale. Ma qual è la cosa più brutta che ci siamo inventati? Ci siamo inventati il debito pubblico. Cioè si è detto lo Stato non ha abbastanza soldi per fare questo e quest'altro? Benissimo. Emettiamo dei certificati di credito nei confronti di altri, quindi vendiamo del debito, ci facciamo prestare soldi su cui però poi dobbiamo pagare gli interessi, ok? Ora chi è che presta soldi a uno Stato? Ci sono due entità che possono permetterselo fondamentalmente: altri Stati, e quindi si crea questa forma di interdipendenza tra le economie mondiali, e fin qui potrebbe anche starci. E poi però ci sono i privati. Chi sono i privati? Sono le banche, queste mega aziende finanziarie mondiali che comprano il debito di uno Stato, per l'appunto, e poi ovviamente vogliono indietro gli interessi. Che cosa è che non funziona in tutto questo? Non funziona che i privati, quando poi sbagliano, e quindi quando poi queste gigantesche corporazioni che sono le banche oggigiorno sbagliano, falliscono, succede che poi il pubblico è costretto a riintervenire per salvarle dalla situazione di crisi. Perché è costretto a riintervenire? Perché le banche forniscono un servizio a chi? Allo Stato, cioè ai cittadini. E quindi è un circolo vizioso. E che cosa succede? Che ci sono sempre le solite poche persone che continuano ad arricchirsi. Questo secondo me è la falla principale del sistema economico mondiale. L'altra, per l'appunto, è il fatto che si parla di finanza e non di economia. Il movimento di denaro non è più strettamente legato alle attività produttive o paragonate alle attività produttive, come ad esempio i servizi, ma si muove per l'appunto solo grazie a delle speculazioni. non solo grazie, diciamo anche grazie a delle speculazioni, io posso prendere e investire i soldi da una parte il giorno 10, il giorno 11 toglierli, metterli da un'altra parte e aver già guadagnato milioni di euro, di dollari o quel che sia. Questo rende il mercato estremamente fragile. Poi c'è un'altra cosa che secondo me è estremamente fallace. Cioè, stiamo vivendo un momento in cui si pensa che tutti possano continuare a crescere costantemente. Gli stati devono continuare a guadagnare, gli stati devono guadagnare soldi privati, guadagnano soldi le banche e si continua a crescere, senza rendersi conto che dopo la discesa deve per forza venire la salita, non si può continuare a crescere indefinitamente. E questo è dimostrato dal fatto che oramai la produzione, quindi l'offerta, non è più strettamente legata alla domanda. Ci sono molti mercati, per esempio quello dell'auto di cui tanto si parla oggi, ma non solo, quello della carne, dei prodotti alimentari in genere, che sono stati messi in moto, la macchina produttiva è stata messa in moto e adesso nessuno la vuole più fermare, perché fermarla vorrebbe dire rinunciare alla ricchezza economica, okay? Alla ricchezza in denaro. Ma il denaro, torniamo a dircelo, non ha più nessun valore dal punto di vista reale. È qualcosa che ci siamo inventati, è del tutto fittizio. E quindi tutti quanti fanno questa corsa verso un valore che è assolutamente finto. La soluzione, dal mio punto di vista, in alcuni casi applicabile, in altri ovviamente no, ma per esempio, non lo so, nel caso dell'auto sarebbe di convertire parte delle attività produttive in attività di mantenimento. Ad esempio, invece di continuare a produrre auto nuove in quantità che poi rimangono invendute, sarebbe molto interessante, per esempio, riprendere le vecchie auto, ok? Quindi le vecchie scocche, e fare il cosiddetto retrofitting, quindi montare motori nuovi, sospensioni nuove, e rimettere in sesto e rendere più eco-friendly delle vecchie vetture, che se non fosse per le parti di consumo, per le parti meccaniche, quindi il motore, l'albero di trasmissione, il cambio, eccetera, sarebbero ancora perfettamente in grado di circolare. Questo manterrebbe la parte produttiva di tutta una serie di componenti dell'automobile, come ad esempio i motori, ridurrebbe la produzione di auto nel suo complesso, e renderebbe anche diciamo più sostenibile, sia dal punto di vista ecologico che dal punto di vista economico, il mercato. Questo secondo me. Certo, la soluzione non è semplice, riconvertire un'attività produttiva non è facile, ma secondo me è assolutamente necessario che venga fatto questo cambio di ottica. Bisogna proprio fare uno switch, cambiare da così a così quella che è l'ottica che invece hanno allo stato attuale i manager delle grandi aziende, che è quella di espandere, come se espandere fosse l'unica cosa possibile. Direi che ho parlato anche troppo, vi sarete sicuramente annoiati, e quindi io a questo punto vi passo un altro pezzo. Loro sono i Paper Plane Pilots, sono francesi ma cantano in inglese e fanno della ottima musica secondo me, quindi giù le basi e ecco a voi i Paper Plane Pilots. Sit alone in my chocolatic. I don't wanna stare at the moon, become romantic. I don't wanna sit alone in my chocolatic. I don't wanna stare at the moon, become romantic. All I need is something new in my life. All I need is something new something new in my life. All I need is something new to get me out of here. Yeah. Waste my time on cooked addictions. I don't wanna close my eyes on my addictions. I don't wanna waste my time on cooked addictions. I don't wanna close my eyes on my addictions. All I need is something new in my life. All I need is something new in my life. All I need is something new in my life. All I need is something new. Bene, bene, bene, rieccoci di nuovo insieme. Ecco che tornano anche le basi. Possibilmente, sperando. Eccoci qua. L'altra cosa di cui vorrei parlarvi oggi è la Corea. Perché? Voi direte, che cosa c'è da dire della Corea? La Corea è un paese come tanti. Sì e no. Allora, sono stato contattato, ho fatto un post, uno, sul mio blog, sulla mia vita in Corea, e sono stato contattato da una quantità di persone a dir poco impressionante. Credo di aver avuto almeno 20 o 30 contatti di persone italiane che avevano prospettive di venire a vivere in Corea o volevano venire a vivere in Corea per i più disparati motivi. La ragione principale però è che ci sono tanti giovani italiani che si sono appassionati ai drama coreani, drama che sarebbero i telefilm, l'equivalente dei dorama giapponesi, solo che c'è una grossa differenza tra i drama, i telefilm giapponesi e quelli coreani. I telefilm giapponesi sono realizzati per lo più a basso costo e si vede, hanno dei registi non particolarmente bravi, i contenuti sono quantomeno risibili, gli effetti speciali sembrano quelli di Star Wars degli anni 80, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa invece fanno qui in Corea? In Corea la scuola di cinema, e non solo, la scuola di produzione di audiovisivi, è molto molto forte. Il cinema coreano è estremamente conosciuto all'estero, ci sono bravissimi registi, c'è tecnologia di qualità. Ricordiamo che se in Giappone hanno Sony, per esempio, Sony, Panasonic e chi altro c'è che produce materiale per registrare video? Sony, Panasonic, basta mi sembra. Non vorrei dire stupidaggini. Comunque qua altrettanto hanno LG, hanno Samsung, principalmente queste due grandi aziende che producono delle ottime macchine da presa, macchine fotografiche, e poi hanno la Samyang che produce delle ottiche di tutto riguardo. Quindi i telefilm coreani hanno una importanza dal punto di vista dell'impatto che hanno sul pubblico notevole. Chi guarda un telefilm coreano dice wow, che bel paese, bello anche da vedere, anche da sentire, anche da vivere. Il problema però è che i telefilm sono telefilm e questa è una cosa che molte persone non realizzano. Molte persone, e questo l'ho scoperto anche parlando con dei miei amici che per esempio venivano dalla Malesia, amici e amiche che venivano dalla Malesia piuttosto che dalla Cina, molte persone associano immediatamente l'immagine della Corea che ottengono dai telefilm con la Corea reale. Quindi una certa pulizia, un certo stile di vita in cui c'è tanto tempo per divertirsi, per fare le proprie cose, un mondo idealizzato. E questo però fa a cazzotti in maniera molto forte, c'è un fortissimo contrasto tra quella che è la realtà dei telefilm e la vita vera. In Corea si lavora tantissimo, la Corea come il Giappone, come la Cina, è uno dei paesi in cui i diritti dei lavoratori sono ridotti veramente all'osso, è normalissimo lavorare 10 se non 11 ore al giorno, si ha pochissimo tempo da spendere con la famiglia, si ha pochissimo tempo da passare con gli amici. Il fine settimana di solito è un giorno, è la domenica, se va bene. La maggior parte delle persone lavora dal lunedì al sabato, tranne i dipendenti statali. I dipendenti statali hanno, mi sembra, nella maggior parte dei casi, fino al sabato a pranzo. Però non vorrei dire una stupidaggine, il pomeriggio ce l'hanno libero. E questo che cosa comporta? Comporta che la gente è stressata, che poi oltretutto l'orario di lavoro spesso non termina con l'orario canonico di ufficio o comunque quel che sia. Diciamo che voi finite di lavorare alle 6:30-7 di sera, avendo incominciato alle 7 del mattino, va bene, perché dovete arrivare prima del capo, attenzione, arrivate prima del capo. Poi arriva il capo, voi vi fate la vostra giornata. Spesso mangiate addirittura sul posto di lavoro, senza nemmeno andare fuori. Dopodiché, alla sera, finite, che cosa vi tocca fare? Voi direte, tornate a casa, vi lavate, passate con la moglie, il marito, figli, sorelle, fratelli, quello che sia, amici. No, la maggior parte delle volte quello che vi tocca fare è andare a bere con i colleghi di lavoro. Quindi la giornata lavorativa si estende anche nella sera. E questo porta anche... è una fonte di stress notevole, perché vuol dire che gli atteggiamenti che si devono portare sul lavoro vengono estesi anche ad un momento che dovrebbe essere di relax, che è quello del dopo lavoro. Quindi il modo di rapportarsi con i propri superiori, con le persone più anziane. La Corea è una società in cui l'età conta ancora moltissimo. Se si è più grandi anche solo di un anno, Si riceve da chi è più giovane un modo diverso di parlare, cioè proprio la struttura del linguaggio cambia a seconda dell'età, cambiano gli atteggiamenti. Se non ci si può rivolgere ad una persona più anziana in maniera schietta, in maniera diretta, bisogna sempre fare i girotondi per cercare di arrivare al punto, bisogna perifrasare moltissimo nei propri discorsi. E questo è qualcosa che le persone non sanno, perché non viene mostrato, non è qualcosa che si vede nei telefilm. I telefilm sono pieni, per l'appunto, di persone con un sacco di tempo libero, sono pieni di dramma, di situazioni da telefilm, per l'appunto. E quindi la mia paura è che ci siano tante, troppe persone giovani che, vedendo i telefilm in Corea, si innamorano di un paese che non è così semplice da vivere. Quindi il mio consiglio per chi voglia venire a vivere in Corea, abbia questo sogno per qualche ragione, è di prendersi una vacanza, se possibile, venire qui per almeno 2 settimane, possibilmente cercare di... trovare contatti in anticipo tramite Couchsurfing, piuttosto che, non lo so, altri siti di Facebook, altri siti di social networking, in modo da farsi descrivere quelle che sono le condizioni di vita da persone che vivono in Corea, da coreani. cercare di passare quel poco tempo libero che loro avranno insieme a loro una volta che arriverete in Corea per farvi illustrare per l'appunto quello che è questo strano e un po' incredibile mondo della Corea del Sud. Io ovviamente sto parlando della Corea del Sud, non della Corea del Nord. Penso che tutti quanti lo sappiate. Se non lo sapete, la Corea del Nord è una dittatura, sostanzialmente, per cui non è, in questo momento non è nemmeno possibile varcare i confini tra Corea del Sud e Corea del Nord, a meno che non ci siano, a meno di non essere coreani e avere dei parenti che vivono nel nord. Quello è l'unico caso in cui viene concesso un visto, per l'appunto, per visitare la propria famiglia. Va bene. Anche questo argomento è stato esaurito, direi. Se avete domande riguardo la Corea, vi invito a farmele. I contatti verranno dati alla fine di questa trasmissione e comunque potrete trovare anche i miei contatti su Ustream. Andiamo avanti con il prossimo pezzo, che è dei Falsa Moneda spagnoli. Eccoci qua, giù le basi. Cambiamo la cover ed ecco a voi Falsa Moneda. Buon ascolto. Benissimo, rieccoci in onda. Rieccoci qua. Faccione. Dunque, il prossimo argomento di cui volevo parlarvi, tra parentesi, ho dimenticato per ben due volte di darvi i titoli delle canzoni che ho passato. I Paper Plane Pilots hanno cantato Something New in My Life e questa era Yellow Chanclas dei Falsamonea, per l'appunto. Il nuovo argomento di oggi riguarda le fonti di energia rinnovabile, alternativa, come si suol dire. E in particolar modo volevo parlare non del solare, che è ben conosciuto, quanto dell'energia eolica. Adesso l'energia eolica è stata legata anche ancora una volta in Italia a mille scandali, come ad esempio i pellet, ma perché in Italia qualsiasi cosa viene trasformato, no, in una macchina per far soldi. Ogni volta che ci sono finanziamenti pubblici, tutti quanti si buttano come degli avvoltoi sulla possibilità di ottenere soldi dallo Stato italiano piuttosto che dalla comunità europea, e questo è quello che succede. Quindi anche questo poi si ricollega all'idea di dover cambiare l'approccio al mercato, un'idea un pochettino più, come potrei dire, di rispetto nei confronti delle persone e dell'ambiente in cui viviamo, che non vuol dire essere comunisti, vuol dire semplicemente rendersi conto che non è possibile continuare su questa strada. Energie alternative. Energia eolica, la forma più conosciuta probabilmente sono le pale a vento. In America sono particolarmente famose perché ci sono queste distese enormi, ma anche in Italia sono state realizzate dei parchi eolici davvero notevoli, spesso illegalmente, purtroppo, con degli impatti, con un importantissimo impatto ambientale e con forti disagi per la popolazione, perché sono stati realizzati per l'appunto senza rispettare quelle che sono le normative riguardo le distanze, riguardo le distanze dalle abitazioni, riguardo il piazzamento in zone non protette per l'appunto, quindi non in parchi naturali e così via. E questo è successo anche con le discariche, voglio dire. L'altra forma di energia eolica di cui volevo parlarvi si chiama kite gen. Il kite è il parapendio, sostanzialmente, ed è una forma di generazione di energia che sfrutta non il vento in quanto energia. Diciamo, non sfrutta il vento per far girare le pale, ma sfrutta il fatto che le differenze di pressione, quindi il vento, possono essere utilizzate per far salire di quota, per far prendere quota a un aquilone, a una vela, e questo ovviamente genera energia. Il differenziale, in realtà l'energia può essere generata anche a ritroso, cioè può essere generata non nella fase di salita ma nella fase di recupero. I dettagli io non li conosco perché non ho avevo seguito la cosa tempo addietro, ma adesso ho dimenticato quali siano i dettagli del funzionamento. E il kitegen, però, appunto, si propone come un'alternativa molto interessante perché è più efficiente dal punto di vista della generazione dell'energia, è più efficiente che non le normali pale a vento. Per chi volesse saperne di più, comunque, in questo momento è in fase di prototipo, è un lavoro principalmente italiano, è stato realizzato, studiato e realizzato da un ingegnere italiano, per chi volesse saperne di più invito tutti a visitare il sito kitegen.com, kitegen.com. Quindi questo è ancora una volta un modo per dirci che se vogliamo possiamo cambiare le cose e possiamo cercare di essere un pochettino più attenti alla nostra vita in senso lato, al nostro benessere in senso lato e non al nostro benessere esclusivamente economico. Ancora musica qui su Into the Nexus, i prossimi ad arrivare saranno i Predator. Io, scusatemi, mi sono perso, aiuto, dov'è? Eccolo qua. Dicevo, i prossimi ad arrivare saranno i Predator con il pezzo che si chiama, aiuto, sì, Concrete Trees, alberi di cemento. Quindi ecco a voi e buon ascolto, Predator. Ragazzi, ci danno dentro, Come sono cattivi e incazzati i Predator. Questo era il pezzo successivo che ovviamente mi è sfuggito, stava partendo in anticipo sulle mie previsioni. quello che succede a usare una playlist. Allora, la puntata per oggi è finita. Volevo però fare i ringraziamenti di rito, i saluti e i ringraziamenti di rito, quindi salutare Sangiuro, che è stato il primo a commentare lo scorso episodio di Into the Nexus. Grazie infinite per essere passato e per essere così presente. I grandissimi Marco e Bea di Casa Pizza. Poi chi altro? Di nuovo Sangiuro, ancora i Pizzari. Pizzari a non finire. Sangiuro, Pizzari e un altro pizzoso che però è Simone, Simone Pizzi di tutto un podcast. Simone Pizzi e consorte Michela Di Paola, di cui ricordo il nome. Ancora Pizzari, Pizzi, oh, JP che è un mio amico di università che non vedo da un sacco di tempo, che però fa degli interessantissimi post sul suo blog. È un blog dedicato alla tecnologia, al mondo dello sviluppo software, eccetera eccetera eccetera. Se avete voglia, fateci, se siete interessati ovviamente, fateci un salto, secondo me vi divertirete, i suoi post sono sempre molto interessanti. Poi volevo ringraziare Edo di Si è giù a caso, e ancora i ragazzoni di Casa Pizza e Sangiuro per aver commentato il primo episodio del mio nuovo ehi, non avevo cambiato webcam, buongiorno. Eccomi qua. Per aver commentato, dicevo, il primo episodio della mia nuova iniziativa, un'iniziativa parallela a Into the Nexus, che si chiama Il Leggio, nella quale mi propongo di leggere ad alta voce, per l'appunto, di realizzare una sorta di audiolibro, dei testi rilasciati con licenze permissive, quindi Creative Commons piuttosto che Public Domain o simili. Il primo capitolo si intitola, scusate, il primo episodio è dedicato al primo capitolo del libro Il gioco degli immortali, scritto da Massimo Mangai ed è stato recuperato da Liber. Ovviamente anche questo è un progetto che richiede una certa quantità di tempo, perché i capitoli spesso sono lunghi e poi insomma, si possono anche lì, la realizzazione può essere fatta in diversi modi, si può leggere tutto di botto in un'unica sessione come ho fatto io in questo caso, si possono leggere 10 minuti per volta in diverse sessioni, a quel punto però poi bisogna prendere, rieditare, mettere, rifare, risistemare, equalizzare i volumi, ridare lo stesso tono, insomma è problematico anche per esempio scegliere le musiche. Io avrei voluto inserire della musica di sottofondo, ma vista la peculiarità del romanzo sinceramente proprio non avrei saputo cosa scegliere, e quindi ho evitato e ho lasciato il testo in bianco, ho solo inserito qualche micro effetto in post produzione per realizzare una sorta di voce sintetica che, insomma, se vi interessa, se volete scoprirlo, andatevi a sentire il mio Il Leggio episodio 1. Detto questo, io chi sono? Io sono Nexus, il mio blog è nexus.thenexus.it. Potete raggiungere il blog dedicato al podcast su nexus.thenexus.it/podcast, dove troverete sia Into the Nexus che Il Leggio, e potete raggiungermi via email a massimo.fierro@gmail.com, che guarda caso è anche il mio nome, quindi il mio pseudonimo viene diciamo invalidato da questa mia pubblicizzazione della mia email, ma lo pseudonimo è solo relativo al podcast. In ogni caso, mi auguro che vi siate divertiti. Vi lascio con un ultimo pezzo di quelli che io credo si chiamino A-Lace, ma non saprei pronunciarlo in maniera diversa, semplicemente perché è scritto A-Y-14-I-C-E, che per quel che ne so si legge A-Lace. Quindi ecco a voi gli A-Lace con Tell Me. Buon ascolto, a risentirci al prossimo episodio. Spero un po' prima di quanto sia successo con questo, ecco, diciamo, magari non altri 6 mesi tra un episodio e l'altro. Ciao a tutti, buon ascolto. Ciao a tutti, alla prossima!